famoso turnover, noi ne abbiamo viste passare tante di mode, imporsi, diventare fondamentali, sì, e poi sparire, ma mi pare che il turnover sia su questa strada. Di sparire, cioè, il turnover nel senso letterale non lo fa più nessuno. Non lo fa più nessuno, è vero. Il Milan ha giocato domenica sera, se non mi sbaglio, come gioca no? mercoledì, rigioca domenica e quindi avrebbe tutti i diritti di procedere ad ampie rotazioni, mi pare che ripresenti più o meno la stessa squadra, cioè probabilmente la squadra più affidabile. L'Inter lo ha sempre fatto, perché poi Mourinho e Capello credo che siano allenatori che non abbiano mai fatto il vero turnover, no, neanche quando pareva indispensabile. E così anche guardando lo stesso Manchester United, lo stesso Chelsea, che ruotano uno, due uomini, per carità, avendo rose vastissime, però ormai si battezza, e per me questo è un progresso, sarà un ritorno all'antico, ma è un progresso, perché l'identità di una squadra va tutelata ed è per me uno dei valori più importanti della squadra stessa.